quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. 24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. O Sarracina, o Sarracina, bello maglione, o Sarracina, o Sarracina, tutte te me la fanno ammura. Partendo da quello che ha affermato il Presidente del Consiglio, e cioè che chi vince governa, punto, tutto il resto sono ghiacci. Però forse qualche problema sui tempi. Ancora continua. Non cambia niente anche sui tempi. Ogni figliola sa piccia si vede passare. Una sigaretta mocca, una mano rinda sacca, e se ne va smargiassa per tutta città. Ma quante volte bisogna ripetervi questa stupidaggine? Ma perché non vi leggete le carte? Ma è così difficile leggere. O Sarracina. Di Maio stamattina ha detto che se lei vince, vince con i voti della mafia. Amico mio, che lei possa immaginare che io alla mia età mi metta a commentare pure Di Maio, e mi pare il massimo della perversione. E la bionda s'avvelena, e la bruna se ne muore, e volena calamita, chi ste femmina galla. Voi continuate ad avere le orecchie tappate, voi sentite solo le fesserie che volete sentire. Un minuto dopo la conclusione della campagna elettorale, le cose cambieranno, come lo deve dire più chiaramente il buon Renzi. Dai, state attenti. Quindi si può dire che un minuto dopo cambierà la legge Severini? Non vi distraete, è un'altra volta, vogliamo passare alla serata, cioè alla Severini. Voi dite quello che volete, ma insomma, per me De Luca è l'incantatore di serpenti. Lui parla, io lo ascolto. Ma dai ragazzi, ma qui veramente c'è proprio sfrontato, ma una cosa inarrivabile con quella voce tutta impostata. Questo era il De Luca vero, poi c'è Crozza. Civati, sì. Pippo Civati ha fatto delle il Festival Internazionale della Cialtroneria pura. Vabbè, ma non. Pippo Civati non sa cosa. Che quando sono arrivato io a Salerno c'era il Mesozoico. Ma no. A Salerno, al posto delle pietre per strada, c'erano delle meduse giganti. Ma cosa dice? No, non c'erano le meduse. Era piena di gente con i piedi avvolti nelle bende. Ma no. Che si orinavano sulle caviglie. Ma va. Per avere un poco di sollievo. Ma non è vero. A Salerno. Vabbè. De Luca, mancano 3 giorni alle elezioni, tutti De Luca, oggi fa 2 interviste anche al Corriere della Repubblica, sempre con quella voce. Voi dovete immaginarvelo con quella voce impostata, no? Parla con Gian Antonio Stella e dice: un minuto dopo aver vinto, ho risolto tutto il problema della legge Severino. Vabbè. Buongiorno da 24 mattino alle 6:33 minuti, Lorenzo Nespoli in redazione insieme all'Alpino Peter Bescapè. Siamo qui, se volete c'è un numero per i vostri messaggi, 349-238-6666. Ve lo chiedo così, ma vi piace De Luca? Non sto parlando di politica, chi se ne frega, dopo dicono, cioè votate per chi volete in campagna, andate a votare, ma non lo so, a me c'è questo modo con la gente che insiste, ma lei insiste, ma lei non sa leggere. È così. Saluto intanto un amico che torna, graditissimo ritorno, Paolo Del Debbio, come stai? Buongiorno, tutto bene Alessandro? Qui siamo vicini al potere, uno che incontra Berlusconi, Renzi, mamma mia. No, Paolino. Lei non sa leggere le carte. Abbiamo la canzone per Paola Saluzzi. E siccome per Paolo Del Debbio l'abbiamo trovato, usiamo Paolina. Quella, però è per Paola Saluzzi. Ah, è sì, la usiamo il mercoledì. Allora, insieme a Paolo Del Debbio saluto, visto che tu sei abituato, caro Paolo, ad avere a che fare con Renzi, noi abbiamo chiamato il quasi omonimo Carlo Rienzi. Il grandissimo Rienzi. Eccolo qua. Buongiorno. Il quasi omonimo. Ieri Rienzi, guarda che ho promesso a uno dei tassisti che avevo alle 8.45 che ha detto vorrei parlare con il... Ma no, non era tono intimidatore, vorrei fare un bel confronto con quelli del Codacons. Gli ho detto e noi lo faremo con Carlo Rienzi. Volentieri, lo organizzeremo. Dai, apriamo il Parlamento. Adesso vado a prendere un caffè, quindi semmai ci vediamo più tardi. Salutiamo anche il ministro Boschi che va a prendere un caffè. Forza, gente. E allora Paolo Del Debbio, ma questo Vincenzo De Luca è mai transitato da te? No. Vuoli più alto. No. Vabbè, c'è Renzi, insomma. Però Di Maio sì, l'ho visto. Come hai fatto a convincere Di Maio, tu che sei molto amico del 5 Stelle, a farlo venire? Si sono convinti loro, nel senso, sia lui che Di Battista sono venuti. E li ho intervistati, credo siano rimasti contenti. Ieri avevo in diretta da Genova la candidata... Come no? L'ho visto. Del 5 Stelle. No, cominciano a... A mettere la testa a posto, a mostrarti, insomma, a levare il capo. Ma senti un po', ma Vincenzo De Luca, adesso al di là dell'aspetto politico, sì, ti piace questo suo atteggiamento? Cioè, proprio lui è così. Infatti, Crozza lo imita, come dire. Ma insomma, Vincenzo De Luca è un personaggio, lasciamo stare la politica perché siamo sotto elezioni e tutto, insomma. E lui è fatto in quel modo lì, cioè poi dopo uno dice vabbè, quello lì è uno che è condannato, non mi va, eccetera eccetera, però oggettivamente ha una capacità fabulatoria che non è male. Io ci rimango lì a ascoltarlo, mi sembra essere cretino, insomma. Sì, esatto. Quando ti sembra di essere cretino ad ascoltare uno è duro, l'altro ha la capacità di farti esatto. È l'incantatore di serpenti, io lo chiamo così. Lui parla, io sto così, lo guardo, no? come l'incantatore di serpenti. Rienzi, una bella causa del Codacons a De Luca. No, questo non c'entra niente, no, però. No, noi devo dire, io sono di Salerno. Questo non lo sapevo. Attenzione. Quindi Luca mi sta molto antipatico, però l'abbiamo addirittura premiato perché ha portato la differenziata a un livello altissimo e ha cambiato la città. Allora il problema secondo me non è De Luca che è antipatico proprio di suo, ma di un sistema che quando il povero Berlusconi, tra virgolette, perché non è che è meno antipatico di De Luca, quando il povero Berlusconi stava nella stessa situazione, nessuno metteva in dubbio che era Severino, bisogna rispettarla, la legge è legge, qui e lì eccetera. Oggi abbiamo un premier che invece dice che mi frega a me, io ho fatto la legge contro la corruzione e quindi questo supera tutto, pure a Severino. Allora rimettere dentro Berlusconi, però dal punto di vista dei cittadini siamo un po' tutti spaesati. Non sapevo che eri di Salerno. Ho visto cambiare la città, che era veramente cazzo scherzo, era una schifezza, era ridotta veramente male. Invece è una città molto bella, fiorente, eccetera. Poi ha fatto lì quel coso, un mostro sulla costa, che poi gliel'ha portato. Chi è questo? Il Crescent. Si sono divisi in due i salernitani. È lì, infatti, che è stato condannato caduto, in primo grado per questo. Esatto. E ieri ha fatto un'intervista al Corriere della Sera, oggi pubblicata, a Gian Antonio Stella, ovviamente dal Crescent. Cioè, proprio l'ha fatta da lì. Vabbè, Di Maio però la pensa così, come ha detto, come gli ha chiesto il giornalista De Luca, ma pensi che io rispondo a Di Maio? Diciamoci la verità, se De Luca o Caldoro verranno eletti con i voti di persone vicine alla mafia. Eccolo lì. Allora, questo è Di Maio. Caro Del Debbio, invece vorrei chiedere una cosa sulla questione degli impresentabili. Sugli impresentabili, questa nuova categoria. Tu di impresentabili in politica quanti ne hai conosciuti? Perché qua ognuno ormai dà la patente di impresentabile in base a quello che vuole, non è che c'è un... Ma io non ne ho conosciuti, per me sono tutti presentabili, poi dopo salvo che chiedono un'autorizzazione a procedere al Parlamento e quindi li mettono in gabbia, il resto per me sono tutti presentabili. Tutti. Non voglio dire, uno si presenta alle elezioni, dopodiché c'è la legge, quella è l'impresentabilità, non è una cosa, una valutazione soggettiva, perché la valutazione soggettiva rende impresentabile uno che vuol presentarsi per rappresentare il popolo, cioè vuol dire No, perché oggi il Fatto Quotidiano lo apre a pagina 2-3 e mette 31 foto, 31, ecco gli impresentabili, e mette insieme indagati, li abbiamo trovati noi, alcuni sono indagati, alcuni sono imputati, alcuni sono condannati in primo grado, altri sono rinviati a giudizio. Cioè, ma io dico, ma con questo criterio non lo so. Vabbè, il Foglio, il Fatto la pensa come la deve pensare. E va bene, sono fatti suoi. Una cosa è che lo dica un quotidiano, ok? Sì. Una cosa è che lo dica la commissione parlamentare. E infatti domani attendiamo. Il quotidiano ha tutta la legittimità di dire quel che vuole. Per noi sono impresentabili. Questo quotidiano, queste persone non sarebbero da presentare alle elezioni, punto. Opinione, giustamente, cioè, la giustifica, perché non è che il Fatto scrive cose così che senza ragionare, e quindi la giustifica non l'ho ancora letto, francamente. No, colpisce proprio. Tu vedi a pagina 2-3, vedi 31 facce proprio grosse, fototessera. Eccole qua. Ma però se lo dice una commissione parlamentare, è diverso. Non sono d'accordo. Qua non so, avvocato Rienzi, chi è un impresentabile, un rinviato a giudizio, un indagato, un condannato in primo grado? Dunque, il concetto di impresentabilità è un concetto letterario, quindi chiunque può ritenere che un altro sia impresentabile. Per esempio perché è troppo alto, troppo basso, troppo grasso, scemo, ha fatto troppi casini in Parlamento. Troppo scemo, però si fa una decimazione. Esatto, cioè troppo scemo. Metti che ha fatto dei casini pazzeschi in Parlamento, no? Che ne so, adesso non voglio citare Crozza che ci ha fatto sempre queste osservazioni fatte molto penetranti, ma quindi non è quello il punto qui è che c'è una legge che prevede che la Commissione faccia delle cose sulla base di certi requisiti. Sì. E quello lì pare che lo debba fare. Cosa farà? Cioè venerdì, forse domani, a due giorni dal voto, vi dice strano, questi qui sono impresentabili. Uno che fa? Tra l'altro non si possono ritirare, sì, puoi non votarli. Ecco. Ma poi per chi ha due giorni dal voto? Si poteva fare 40 giorni prima. Appunto. Cioè al momento, il giorno dopo la presentazione delle liste, doveva essere fatto il giorno dopo, dando un termine ai partiti di altri tre giorni per decidere se cambiare. Comunque il genio in questo è la signora Criscuolo, tu l'hai conosciuta, ne hai sentito parlare di questa signora Rosy Criscuolo che è candidata in campagna? Non l'ho conosciuta, ti dice niente, ma sentite come ha reagito su Facebook. È quella che è stata pizzicata perché aveva fatto una cena con Scajola era indagato, credo. E lei ha reagito così su Facebook un giorno fa, E poi questa storia degli impresentabili, io vorrei rispondervi una volta e per tutti, cioè mandate a fanculo, cioè ma ve lo dico proprio tranquillamente, chi dice che io sono un impresentabile, devi andare a fanculo. Ha reagito così, con buon tono. Ovviamente Cruciani l'ha subito chiamata. Senti un attimo cosa dice, poi mi dici, senti cosa dice della Pascale, da Cruciani, la Zanzara, la Criscuolo. Poi è venuta la fidanzata di Berlusconi tutta abbronzata e mi dice: Criscuolo per me è impresentabile. Ma tu c'hai la faccia che mi sembra che sei dall'Africa. Cioè, mi vuoi dire a me che io sono impresentabile? Cioè, ma che vuol dire la faccia dall'Africa? Oh, Criscuolo, ma sempre peggio del Debbio. Ma sei un con la faccia che sembra venuta dall'Africa. Lavora in modo fortissimo per la sua impresentabilità. Esatto. Ah, voleva dire un'altra cosa, Rienzi. Forse voleva dire questa che ha detto in un'altra faccia di altro tipo. Sentiamo. Io mi rivolgo a tutti coloro che si vogliono prendere voti degli impresentabili e poi dicono che non ci devono votare. Ma che faccia di culo! Ecco, forse forse Rienzi qui non l'ha associata nessuno, ovviamente, la faccia da culo, ma... qui voleva, chissà che voleva dire con quell'altra, no. Però non ne parliamo, non ne parliamo, non ne parliamo. No. Comunque questo è, vabbè. Allora, Del Debbio, che campagna elettorale è stata? Renzi, come l'hai trovato? Il nostro presidente del Consiglio. Quando ha parlato 8 minuti, poi si è lamentato che c'era la pubblicità. Io dico, ma non si può finire un ragionamento. Ma come non si può finire un ragionamento? Vabbè, dimmi. Vabbè, io ho detto, lasci che io metto da parte un po' di soldi, esatto. Perché non c'ho il vitalizio. No, l'ho trovato, non so se aveva avuto una giornata un po' stanco, e anche un po' più guardingo, insomma, di altre volte che l'ho intervistato. Meno battute, meno, no, battute qualcosa ha fatto, però insomma, problemi dentro, problemi fuori, problemi accanto, problemi sotto, problemi sopra, di Lima era cosa. Vabbè, l'ho trovato così. Il potere logora chi non ce l'ha, anche chi ce l'ha. No, secondo me chi ce l'ha, sì, infatti. Chi ce l'ha? E l'ho trovato così, però l'ho trovato anche, come al solito, piuttosto deciso ad andare avanti, cioè... Bello cattivello, insomma. Non è che l'ho visto incerto o roba del genere. Questo è uno che decide. Questo sicuramente. Questo lo distingue da molti altri prima di lui. Intanto noi andiamo al traffico con questo messaggio che arriva, Carlo Rienzi. Il Codacons è una chiara manifestazione del maligno. Che cavolo ordini, mannaggia la puttana, spiegatevi bene. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta 24 mattino. E così Milan ci ha fatto scoprire che anche a Caria o Caria, provincia di Vibo Valentia, è intervenuto un TAR e tutto finisce a Tarralucci e Vino. Milan, fammi a Lasen che costa caro se. Uè Milan, devi dire, i politici impresentabili al Parlamento italiano, ma quando se ne vanno? Questo dovete dire, noi politici locali, grazie e viva l'Italia. Ale, cosa dire? Sei troppo bravo, simpatico, bello, insomma. Ciao. Vabbè, non si può avere tutto dalla vita, caro Paolo Del Debbio e Carlo Rienzi. Questo... Ma come ci permette, state rispettando? Ma no, infatti, ma poi se ci manca... miete vittime nel settore femminile continuamente. Ma quali vittime? Sì. A calci fuori dalla porta. Sono cose pazzesche, ma lasciamo stare, dai. Vabbè, allora. Non mi fate parlare. Allora, vabbè. No, invece devo parlare di questa cosa. Questa cosa seria e grave che è successa ieri a Roma, forse avete già capito, una tragedia terribile. Tre Rom che non si fermano all'alta della polizia, fuggono pare a 180 all'ora in piena città, travolgono 8 persone, ammazzano proprio sul posto per lo schianto una povera filippina che stava attraversando la strada, feriscono gravemente altre 4 persone, una l'hanno pescata, 2 li sono ricercati. Ho letto sul Corriere della Sera, caro Paolo Del Debbio, tu di questi temi, il rapporto con la comunità Rom te ne sei occupato, una di queste persone ricercate su questa macchina è titolare, risulta titolare di 20 macchine. Sì, sì. Per carità, adesso non vogliamo andare nei luoghi comuni, ma i resoconti già della città. No, perché non vogliamo andare nei luoghi comuni? Andiamoci nei luoghi comuni, nel senso, se il comune è il buon senso, ok, o il senso comune. Allora, il senso comune è il seguente, che molte di queste persone che abitano i campi Rom e che hanno soldi sui conti correnti, abbiamo trovato anche residenti con dei milioni sui conti correnti o macchine, non sanno giustificare l'origine dei soldi con i quali le avrebbero comprate, nel senso che quei soldi in moltissimi casi li hanno rubati, punto e basta. Questa è la situazione. Noi abbiamo avuto intervistate moltissime persone, anche in diretta, che ci hanno detto, poi dopo ci abbiamo avuto anche quel problema con un giornalista che abbiamo dovuto mandare via per tutta la storia. Ma quindi quella è vera quella cosa, cioè avete scoperto anche voi che se aveva dato dei soldi? Beh, se è stato mandato via, i soldi no, lui nega e non è però aveva fatto qualcosa a provarlo, però qualche cagatella l'aveva fatta e come, insomma, quindi è andato via. Allora, a parte quello, in diretta moltissimi ci hanno detto, persone vestite nel modo in cui si vestono, i rom, tutte queste robe qua, ci hanno detto, sì, vabbè, qualche fruttarello lo facciamo, d'altra parte, se no non abbiamo lavoro, come facciamo ad andare avanti? Sì, sì. E questo io potrei mandare tantissime, e allora, che si fa? Cioè, noi ci occuperemo di questa cosa di Roma. Sì. Non è stragravissima. Cioè no, ma è gravissima. E poi voglio dire, cioè, tutte le solite frasi: non tutti i rom rubano, ma lo so anch'io che non tutti i rom rubano, molti sono di cittadinanza italiana. Ma queste cose poi alimentano chiaramente il luogo comune. Ma dai, 20 titolare di 20 macchine. C'è un pugile che si chiama Di Rocco, sì. Bravissimo pugile. Di origine rom, che concorre per il titolo europeo dei pesi leggeri. Ma certo, ma certo. Si chiama Di Rocco, è un rom, e che io che c'ho contro Di Rocco? No, ma infatti, poi devo dire, Rienzi, leggete, e te lo segnalo anche a te Paolo, se fai la trasmissione stasera, leggete tutte le cronache, il Messaggero, cioè la gente giustamente, come reagisce? Mo li ammazziamo, bruciamoli tutti, le cose più terribili ovviamente. Ma Rienzi, di ordine, poi fa casino. Rienzi, però se voi spostate problema sui rom, secondo me fate un errore. Ma non è questo il problema rom. Il problema dell'alcol e della droga alla guida, ma è un problema gravissimo. Ma qui mi sa che, cioè, semplicemente non si sono fermati all'AL della polizia. Non lo so, adesso vedremo. Cioè, uno perché magari è alcolizzato e ha paura della patente, ammazza una persona, ne ferisce altri quattro. No, questi ammazzano, ma non solo i rom, ammazzano anche gli italiani. Cioè, la diffusione dell'alcol tra i giovani è una cosa pericolosissima. Il governo ha annullato il Dipartimento Politica Antidroga della Presidenza del Consiglio. Allora io voglio andare sempre a monte. Se non si previene, se non si lavora su queste dipendenze, su questo problema dell'alcol, della droga, della ludopatia, sì, però allora, l'alcol alla guida conviene, è un problema, ma qui in questo caso mi sa che il problema era un altro, cioè tre persone che non volevano essere fermate, ma non credo per l'alcol. Ci sarà un motivo, ma sarà Non è che magari la macchina era rubata, roba del genere. No. Comunque io, Rienzi, è persona che conosce molti problemi del nostro mondo, eccetera, eccetera, è molto realistico. Però non andiamo troppo a monte, Carlo. Qui si vede meglio a valle. Si vede meglio a valle. È più facile vedere a valle, però. No, sarà anche più facile, però. In questo caso, voglio dire. Comunque, io me ne occupo stasera. Dalla vostra parte, certo, questo immaginavo alle 20:30 su Rete 4. Comunque è una cosa sì, molto è terribile. Dopo la leggera rassegna stampa, le cronache, ovviamente, e la reazione, perché poi dopo si innesca che cosa? Si teme adesso la gente che voglia reagire, no? Si teme già possibili vendette, possibili che sono sbagliate. Lo diciamo tre volte: sono sbagliate. Però la gente bisogna abituarsi a vivere in questa situazione diversa da quella di 30 anni fa, di 20 anni fa. Con qualche regola in più, con qualche controllo in più. E qua il controllo c'è stato. Sono fuggiti da un controllo della polizia, hanno tentato di fermarli, sono partiti a 180 all'ora, hanno falciato. Ma se avessero controllato uno che si intesta 20 macchine, l'avrebbero dovuto controllare prima, perché basterebbe fare un esame al PRA, al pubblico registro automobilisti, e capire che c'è stato qualcuno che non deve avere 20 macchine intestate. Sono mie. I controlli sono a monte, non esistono. Del Debbio, ma quei bambini sanno svuotare. Del Debbio, devo chiudere. Per una pioggia. Sì, è vero, ma questa è un'altra cosa. Devo chiudere. Comunque, Del Debbio, ne parlerai stasera dalla vostra parte. Intanto vi ringrazio, Paolo Del Debbio, Carlo Rienzi. Alla prossima. Voci dal Giro.

e magari a fronte di versamenti di 60.000 euro hanno ottenuto per ora pensioni già di 500-600.000 euro, insomma uno spread a loro vantaggio notevole. E allora Gerardo Bianco ha scritto una lettera che Libero oggi pubblica a pagina 2, in cui parla di liste di proscrizione, di insultanti epiteti, di gettare discredito su tutta la classe dirigente che ha guidato l'Italia a diventare la quinta nazione al mondo, che ha vinto la sfida al terrorismo, ha condotto il paese nel gruppo di testa dell'Europa. Insomma, si punta con queste campagne a offuscare la nostra storia parlamentare, che è la storia della costruzione democratica dell'Italia. Gerardo Bianco, che è notorio perché ai nostri microfoni, quando lo chiamammo un mese fa, disse questo sul vitalizio, eh? Il vitalizio medio di un parlamentare dei 3.500 euro. Sono persone che hanno superato i 70 anni. Dovrei praticamente andare alla mensa di Sant'Eustachio, ero per soddisfare le richieste. Con 3.500 euro una persona che, insomma, come dire, ha oltre 70 anni vive decentemente, punto, non può sottrarre nemmeno mezzo euro. Neanche mezzo euro. Saluto Mario Giordano, direttore del TG4 ma anche editorialista di Libero. Direttore, eccoci, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Alla mensa di Sant'Eustachio, dice Gerardo Bianco, dovrei andare per soddisfare le esigenze. Inutile dire quanto suoni offensivo nei confronti di tutti quei pensionati a cui questa classe politica non ha avuto esitazione a tagliare e a massacrare le pensioni. È un pesce cane, tu hai scritto il libro Pesce Cane, lo definiresti un pesce cane, Gerardo Bianco? Tutta questa classe politica, che oserei dire nella lettera Gerardo Bianco scrive di discredito, non sono i giornali che scrivono sulla classe politica a gettare discredito, purtroppo è stata la classe politica medesima a gettare discredito su se stessa. Difendendo in questi anni i propri privilegi. Ripeto, perché i vitalizi fanno tanta impressione? Perché dal 92 a oggi le pensioni degli italiani sono state una specie di bancomat, no? Ogni volta che si devono andare a recuperare soldi a far cassa si sono massacrate impunemente senza avere nessuna pietà su diritti acquisiti, creando situazioni assurde come quelle degli esodati, e dopodiché si vede che si mantiene invece un privilegio spaventoso che riguarda proprio quelli che sono andati a tagliare. Quando parla di liste di proscrizione, tra virgolette, mette questa definizione, cioè è brutto vedersi il nome sul giornale, no? Ma sarà brutto vedersi il nome sul giornale. Io penso che sia brutto prendere 450 euro alla pensione e andare davvero alla mensa di Sant'Eustachio, puoi vedere il nome sul giornale, a parte che non sono liste, Libero sta pubblicando tutti i nomi. Quindi, cioè, tutti i nomi con tutto il calcolo, con quello che prendono. Questi prendono i soldi nostri pagati da noi, ripeto, perché sono pagati buona parte. Non, Gerardo Bianco è uno dei pochi casi personalmente, sì, lui tra che l'altro ha versato, non ha, esatto, ha versato più di quanto ha preso, ma è un caso praticamente rarissimo. Ma io non devo sapere che sto pagando la pensione con le mie tasse a Luciano Benetton, tanto per dire un nome, o a Eugenio Scalfari, tanto per dirne un altro, o al nostro amico avvocato Luca Boneschi, che è stato in Parlamento un'ora e per quest'ora in Parlamento neanche cosa, continua a prendere 3.108 euro. Dice, bisogna sapere. No, ma è chiaro. Allora, ti voglio presentare un ospite. Intanto voglio dare il numero di telefono, se volete intervenire, 800 24 00 24. Parliamo di vitalizi, se volete intervenire, dire la vostra, e parleremo poi anche di soldi ai partiti, perché avremo un dossier di Open Police da farvi conoscere. L'ospite che ti presento, Mario Giordano, è presente ai nostri ascoltatori, è già stato con noi, tra l'altro è stato anche lui presidente dell'Associazione Ex Parlamentari, è l'onorevole Franco Coccia. Buongiorno presidente, come sta? Benino. 87 anni, giusto? Sì. In splendida forma, mi sembra, dalla voce, insomma. No, in splendida forma non direi. Allora, sono cascato e cammino col bastone. Va bene. Presidente Coccia, Libero pubblica anche il suo nome. Mi dica se le cifre sono giuste. Lei prende 4.684 euro lordi o netti di vitalizio al mese? Beh, lordi. Però Libero scrive, lei ha versato 247.000 contributi e ha già preso 2.018.000, quindi uno spread, diciamo così, favorevole a lei di 1.771.000 euro. Beh, sì. No, parecchi, un bel investimento questo vitalizio. Ma senta, io adesso mi faccia la domanda, qual sì. è la domanda? No, vabbè, si sente, è una campagna sbagliata quella di Libero, c'è qui Mario Giordano che l'ascolta, è una campagna giusta o sbagliata? Far sapere. Sbagliata, perché sbagliata. In tutti i paesi europei i parlamentari prendono un vitalizio. E quindi è sbagliata, beh, ma non dobbiamo sapere? No, è sbagliata, io direi che oltre che sbagliata contribuisce a screditare istituzione parlamentare. Mm. Ma le sembra non sembra che getta anche più discredito il fatto di avere una pensione che le garantisce a fronte di 200.000 euro versati di ottenere già 2 milioni e quindi... Senta, no, ma il discorso è un altro. Bisogna risalire alle radici dell'istituzione. Mm. E quali sono? Insomma, con il formarsi della democrazia in Italia nacque subito una questione dentro il Parlamento, cioè quella di distinguere sì. i primi parlamentari erano scelti per censo, sì. no? Venivano dal Partito Liberale, quindi erano tutte persone alle cui spalle c'erano fortune, ricchezze. Con il sorgere dei partiti di massa, quindi soprattutto il Partito Popolare, il Partito Socialista, nacque subito la questione di far entrare in politica tutti, giustamente. E certo, e quindi però questo comportava anche il fatto che questi partiti presentavano candidati che venivano da o da professioni o addirittura dalle fabbriche, dal lavoro. Però mi scusi Presidente, l'origine, la genesi se vuole è corretta, però in Italia ci sono tante cose che iniziano bene e finiscono male, cioè non crede, le rifaccio la domanda, è normale aver versato 247.000 euro? È normale per la legge, chiariamo, ma è normale un sistema in cui si versano 247.000 euro come lei e si ottiene 2 milioni in cambio? Per me sì. Per lei sì. Perché questo consente di avere una scelta di parlamentari che prescinde dal censo. Dal censo. Non so, Mario Giordano, vediamo intanto alcune cose. Perché sorridi? No? No, con tutto il rispetto per l'onorevole, per l'amore del cielo. Però non è vero che in Europa esiste, negli altri paesi europei esiste il vitalizio in queste forme, con il corredo di privilegi. Una su tutte, la possibilità di cumulare tre vitalizi, quello da consigliere regionale, quello da parlamentare e quello da europarlamentare, come in alcuni casi abbiamo visto. Seconda cosa, la dimostrazione che il vitalizio non ha più senso è il fatto stesso che, come ci viene ripetuto in ogni talk show a cui partecipiamo e come abbiamo detto anche qui tante volte, il vitalizio è stato abbattuto, diciamo così, per la nuova per generazione, futuro, quindi sì. vuol dire che è un istituto che lo stesso Parlamento, quindi non è che siamo noi che gettiamo di scherzo, lo stesso Parlamento alla fine ha capito che è una cosa insensata e sbagliata, e allora non si capisce, dal momento che è stato abolito, come ci viene costantemente ripetuto, perché lo si debba mantenere per le persone che l'hanno ricevuto in passato, ripeto, non versando i contributi, da qua la campagna di Libero, perché se uno si è versato i contributi dice io ho versato i miei soldi, ho diritto di prendere, no, tu hai preso 800.000 euro. E terza cosa, ci aggiungo, si tratta di persone che per lo più non vivono di quel vita, perché hanno maturato un'altra pensione, spesso anche con contributi figurativi mentre stavano in Parlamento. Ma infatti la questione, Presidente Coccia, è che nessuno mette in dubbio, a parte che per il futuro, come ci ha detto Mario Giordano, non ci sarà più il vitalizio, è stato tolto, ma nessuno mette in dubbio che chi ha vissuto di politica debba per tanti anni debba avere una pensione, chiamiamolo come si vuole, ma è la sproporzione tra quanto versato e quanto ricevuto che fa un po' scalpore, così come il fatto che è cumulabile con altre pensioni di altri lavori, Presidente Coccia, questo è tutto messo insieme fa un po' scalpore, che le devo dire? A lei no. Io le posso solo dire che io trovo che la lettera di Bianco sia giusta. Giusta. E che la corresponsione del vitalizio è un mezzo per assicurare a quanti si sono dedicati alla vita parlamentare un'esistenza dignitosa negli ultimi anni della loro vita. Sì, ma dignitosa, mi scusi, cioè 2 milioni di euro, cioè 1.771.000 euro lei ha ottenuto in più rispetto a quanto ha versato, più che dignitosa. Cioè sentire il presidente Bianco dire: se mi tolgono un euro da 3.500 vado alla mensa di Sant'Eustachio, nei confronti di chi magari prende... Questa era una battuta, insomma, adesso... È una battuta, cioè nei confronti di chi prende 600, 700 euro ce ne sono di pensionati, non lo so, sa, a volte le battute purtroppo in questo clima anche un po' teso. Si potrebbe fare a meno. Potrebbe fare a meno. Comunque lei cosa pensa che si possa fare per il passato, se si deve fare qualcosa? Andrebbero un po' limati, tolti, un contributo di solidarietà, oppure intoccabili questi vitalizi, Coach? A mio parere sono intoccabili. Perché l'attuale corresponsione consente a centinaia di ex parlamentari che sono poi in età avanzata, spesso malati, di provvedere a se stessi. Perché una cosa che si deve tenere presente è questo, che chi ha fatto 2, 3, 4 legislature al ritorno alla vita normale, sì, non trova più alcuna possibilità di impiego, di lavoro. Ma questo l'abbiamo capito, ma mi sembra che è ripagato abbastanza questo disagio di non riuscire più a reinserirsi nella... Se uno sta un giorno, no Giordano, cioè, ci sono casi di gente che sta 3 giorni in Parlamento, 1 giorno in Parlamento e prende una un vitalizio. Questa è un'altra questione. Io sto parlando della normalità dei casi. La normalità. Vabbè, Mario Giordano, qui mi sa che non... No, però ripeto, con tutto il rispetto, però è veramente inascoltabile dire che... Perché questa classe politica ha ridotto questo paese in situazioni devastate e come ci sono tantissimi pensionati che riescono a provvedere se stesso purtroppo con la pensione minima, io penso che da domani una riforma, visto che ci vengono ricordate costantemente esigenze di riforma, è quella di abolire semplicemente tutti i vitalizi, abolire con un colpo di spugna, e i parlamentari che hanno vissuto già di privilegi per tanti anni e hanno incassato già tanti soldi, per non chiedo indietro i soldi, perché a me verrebbe voglia di chiederli indietro quegli 800.000 euro al signor Scalfa e quei 900.000 euro al signor Rotta, verrebbe voglia di chiedere indietro, mi astengo, non li chiedo indietro, ma dico che da adesso in avanti ognuno viva con la sua pensione, e chi non ha un'altra pensione vive con la pensione minima come vivono milioni di pensionati che non hanno avuto i privilegi che hanno avuto questi signori parlamentari per tutti questi anni. Ma perché dobbiamo pagarli a difesa? Non si può sentire, è indegno, è vergognoso. Io non capisco come non ci si faccia rendere conto le battute di Gerardo Bianco, ma si deve vergognare, la gente è incazzata, i pensionati vanno a ravanare nei bidoni al mattino per avere qualcosa da mangiare e si sentono dire che con 3.500 euro non possono scendere, sì, sotto, quelli che li hanno ridotto lì, perché l'altra cosa che va in casa, mi viene detto, ma questa è la legge. Ma è la legge che si sono fatti loro, mentre facevano le leggi che massacravano gli italiani, massacravano i pensionati italiani, costringendo pensionati dignitosissimi al mattino andare a raccogliere le cose da mangiare nei bidoni da spazzatura, e adesso ci vengono a dire che questo non si può toccare, è inaccettabile. Lo so, però il fatto che non si possa toccare credo che sia anche un dato di fatto, no? È proprio, pendono poi ricorsi alla Corte Costituzionale, lo sappiamo. Comunque, che devo dire, Gerardo Bianco ce l'ha col Libero, Giordano, non è una questione di diritti acquisiti ma di semplice giustizia, la tutela di quel diritto. Ma anche il presidente Coccia, che è ex presidente prima di Gerardo Bianco, ci dice, mi pare di capire, che il punto è questo, intoccabile, e quindi così è. Io mi devo fermare, vi devo ringraziare Franco Coccia, ex parlamentare del Partito Comunista, ex presidente dell'associazione ex parlamentare, così Mario Giordano, direttore del TG4, ricordo anche il suo libro Pesce Cane, insomma ha messo anche nei Pesce Cani Gerardo Bianco evidentemente, lo trovate edito da Mondadori. Ma non finiamo su questo tema, ci sono le vostre chiamate, Giuseppe da Catania, Michele da Napoli, riprendo da voi dopo la pubblicità, però perché dobbiamo parlare anche di questo dossier di Open Police che ha fatto i conti di quanti soldi i partiti hanno preso dal 94 a oggi, più o meno, quei partiti che spesso sono falliti adesso e a guardare dai soldi dicono o li hanno investiti male o li hanno scialacquati, perché tutti sti soldi, ma dove sono finiti? Boh. Siamo qui, sono le 8:39 minuti. Allora, 800 24 00 24, Giuseppe da Catania ci ha chiamato. Che ci vuole dire, Giuseppe? Sì, pronto, posso parlare? Come no? Io dicevo che questi vitalizi sono una truffa sotto gli occhi di tutti. Allora mi chiedo come mai non configurare un reato di associazione a delinquere, visto che l'hanno approvato tutti i consiglieri regionali. Ma truffa no, quanti. Truffa no, però Giuseppe, perché truffa è un qualcosa di illegale. Idea, diciamo, beh, ma sale le idee. In realtà è tutto legale, cioè non è che rubano dei soldi. È legale, però nel momento in cui tutti d'accordo l'hanno approvato, lì c'è un'associazione a delinquere. Bisogna configurare un reato nuovo, perché fra l'altro al nord è associazione a delinquere, non lo leggo mai. In nessuno scandalo, sì. Come mai? Che qualche magistrato lei vorrebbe per questo tipo di legge truffaldina, però sa, truffaldina per quello che può essere l'opinione pubblica, ma dal punto di vista della legge ha invece tutti i crismi della regolarità, e quindi non è che questi soldi che vengono presi dai vitalizi rubino nulla. Però lei dice, è un po' la rabbia, no, di dire dovrebbe esserci l'associazione a delinquere. Grazie Giuseppe. Andrea Napoli, da Michele Napoli, buongiorno. Buongiorno a lei. Io volevo innanzitutto complimentarmi con la stampa per questa campagna. Credo che sia una cosa talmente socialmente utile, perché sa, le generazioni future, che sono le principali toccate da queste cose, non hanno la forza di parlarne, perché sono talmente prese ad occuparsi del quotidiano e del domani, che al dopodomani proprio non c'è spazio per pensarci. Quindi grazie a voi che lo fate. Non chiamarli più diritti acquisiti. Noi tutti sono benefici acquisiti. Benefici. Paese che un paese non può più permettersi. Sono d'accordo allora, con lei. Esatto, non c'è la possibilità, perché se si norma a livello costituzionale non c'è ricorso che tenga. Allora diciamo sempre che c'è una volontà. Ma infatti però politica. Michele, no, il problema è che Michele li hanno riformati, ma per il futuro. Quelli che corrispondiamo dobbiamo finire di corrisponderli. Questo a un terzo del nostro. È una cosa insostenibile, che coniugata all'istituto della reversibilità, che credo sia un istituto giusto, però coniugata con la reversibilità a questi livelli, è una bomba. È una bomba. Allora, no, ma è chiaro, Michele, però non si sente che l'Europa ci paghi queste cose. No, ma se infatti parliamo dei nostri conti, l'Europa non può pagarci queste cose. Michele, è stato chiarissimo. Andrea Bergamo da Patrick. Buongiorno Patrick. Sì, buongiorno. Ecco. Ma no, appena anticipato, perché la mia domanda è: augurando una lunga vita a questi signori parlamentari, tutti, ovviamente. Volevo chiedere se le vedove un domani, quando loro difendono, prendono la reversibilità. Come no? Certo. Certo, molte, guardi, sul Libero quelli che pubblicano i nomi, alcuni sono i nomi di vedove o vedovi, in genere sono più vedove, perché allora i parlamentari erano soprattutto uomini, vedove che prendono la reversibilità, e poi dicono non è come una pensione, invece ha tutti i crismi della pensione, però sì, la domanda è prendono la reversibilità, non so di quanto dal punto di vista percentuale del vitalizio, ma la prendono. Vorrei presentarvi un ospite, Vincenzo Smaldore, che è responsabile editoriale di Open Polis. Buongiorno Smaldore, benvenuto. Buongiorno. Ben ritrovato. Allora, voi avete pubblicato, lo trovate su internet, a che indirizzo? Com'è il vostro indirizzo? Openpolis.it, molto semplice. Questo dossier, ne pubblicate tanti, ci ha incuriosito questo sotto il materasso, cioè quanti soldi dal 94 a oggi col finanziamento pubblico ai partiti, e voi direte ma era abolito nel 93, e vabbè, ma insomma basta chiamarlo rimborsi e non finanziamento e tutto rientra dalla finestra. Quanti soldi dal 94 a oggi hanno preso i partiti e quanti ne hanno spesi? Il bilancio cos'è, a favore di spese o entrate? Beh, il bilancio è che i partiti sono riusciti a far generare dei profitti pazzeschi. Sono evidentemente nel loro complesso l'impresa italiana che genera più profitti. Ah. Questo forse è il problema di problemi. E come mai? Cioè, ci dica una cifra, giusto per capire, dal 94 a oggi complessivamente quanti soldi? Solo sui rimborsi elettorali, avendo preso quasi 2 miliardi e mezzo di euro, rispetto poi alle spese che hanno certificato, sono riusciti a generare delle plusvalenze per 1,7 miliardi. Quindi solo con i rimborsi elettorali 1,7 miliardi in più. Vedo per esempio che nelle politiche del 2001, il dato elaborato dall'Espresso, non so, hanno speso circa 50 milioni i partiti in quelle elezioni e hanno incassato 450 milioni. 400 milioni così solo in una elezione. Ma come mai molti partiti falliscono allora, Smaldore? Beh, ma qui stiamo parlando evidentemente di meccanismi contabili. Io però farei giusto un passo indietro, semplicemente per dire che da un certo punto di vista siccome il nostro sistema politico istituzionale si basa sul meccanismo e il principio della rappresentanza, il fatto che tutti abbiano risorse e strutture dallo Stato per poter funzionare è giusto. Sì. In tutto il mondo civile funziona così. Il problema però è che in Italia il sistema dei partiti nel suo complesso ha generato un abominio, sì, per cui la sostenibilità delle proprie attività si è passata alla generazione di profitti. Sì, devo dire no, ma il concetto è questo, la degenerazione, come ho detto prima sulla questione dei vitalizi, nati forse per con un meccanismo giusto e per un principio giusto, per mettere a tutti di fare politica, sono degenerati in rapporti tra quanto versato e quanto ricevuto vergognosi. Smaldore, devo dare il traffico, tra l'altro la sua linea telefonica è un po' imprecisa, magari la richiamiamo, si mette in un punto che si sente meglio, tra poco siamo ancora da lei, dopo il traffico. Monge, crocchette e patè per cani e gatti, con tanta carne fresca italiana. Vi presenta... Eccoci qua, allora siamo con Vincenzo Smaldore, responsabile editoriale Open Policy. Ci diceva il fatto che 1,7 miliardi solo di rimborsi, ma perché hanno preso soldi anche in altri modi i partiti dal 94 a oggi? Beh sì, quello che noi siamo andati a ricostruire è fondamentalmente l'insieme del meccanismo del finanziamento pubblico, per cui ci sono i rimborsi elettorali, ci sono i finanziamenti ai gruppi politici, ci sono i finanziamenti ai media. Quello che è interessante è vedere come con il passare del tempo l'opinione pubblica soprattutto è stata indirizzata sul ragionamento dei rimborsi elettorali e pertanto lì i partiti sono stati costretti a intervenire con delle modifiche di legge. Mentre i finanziamenti ai gruppi parlamentari sono una cosa che è rimasta un po' fuori. Forse lì c'è anche l'autonomia del Parlamento. Questa. Perché la nuova frontiera? È la nuova frontiera, perché noi per esempio siamo andati ad analizzare i dati dei gruppi parlamentari del 2013, perché dal 2013 hanno un obbligo di pubblicare i bilanci. E che avete scoperto? E abbiamo scoperto che anche lì si torna a questo meccanismo pauroso di plusvalenze, per cui nel 2013 tutti i gruppi parlamentari chiudono con attivi importanti e sommando abbiamo 15 milioni di euro che in un solo anno i partiti sono riusciti ad accantonarsi. 15 milioni in totale, poi ovviamente redistribuiti in base a... Ovviamente dipende, i gruppi più grandi. Sì, certo. No, ma lo chiariamo ancora una volta, che nessuno vuole affamare la bestia, si usa questo modo, cioè dare zero euro, fare la politica costa e quindi un sistema democratico c'è in tutti i paesi civili e democratici in cui si finanzia la politica, ma qui è troppo, Smaldore, qui è troppo. Guarda, il punto fondamentale è capire proprio la natura giuridica dei partiti, cioè i partiti devono svolgere un ruolo politico di rappresentanza del paese, non devono essere delle imprese che generano profitti. Sì. E da qui che non se ne esce, perché se invece si permette loro di fare questa cosa, loro troveranno sempre nuovi meccanismi, per cui sono stati scoperti i rimborsi elettorali, va bene, cambiamo, e diventano il finanziamento pubblico. Ma noi poniamo l'attenzione sui finanziamenti ai gruppi, forse tra un paio d'anni ci riusciremo, insomma, se si solleva l'opinione pubblica su questo. Sempre che non compaia qualcos'altro, esatto, trovano sempre... Quindi il punto fondamentale è la natura giuridica di un partito, ma perché un partito deve fare profitti? Perché fare partecipare a un'elezione, contribuire alla vita democratica del paese deve essere un affare per qualcuno? Sì, e poi rimane la domanda, però è un'altra domanda di un altro genere che non devo fare a lei, a volte l'abbiamo fatta ai tesorieri, come mai con queste plusvalenze siano falliti spesso i partiti? Comunque Smaldore, la ringraziamo perché ci ha aiutato a capire con delle cifre, poi questo rapporto sotto il materasso lo trovate sul sito openpolis.it per capire. Allora, Francesco da Palermo ci ha chiamato, che dice lei? Sì, buongiorno intanto. Sì, io ho ascoltato la discussione che ha fatto il presidente Coccia, mi sì, pare che... esatto, ex presidente dell'Assemblea. Ex presidente, allora, io dico questo, io sono un avvocato, quindi dico, ritengo che ci siano dei mezzi di carattere legale per risolvere la questione. Però, come sempre, le questioni non si vogliono risolvere, perché dietro diciamo una potenziale soluzione c'è sempre il tentativo di accordo o quantomeno il cercare di non dispiacere una parte o una grossa fetta di che deve fare? Le soluzioni ci sarebbero, sono già operative. Io ne indico due, ma è tanto così perché me le dica velocemente. Molto leggere. Velocemente sono due. La prima è quella del cumulo, così come avviene per tutti i cittadini italiani. Vietare il cumulo. Il vitalizio non è equiparato a una pensione e quindi dicono non è una pensione, è una sorta, no? E quindi la fregano così, Francesco. Poi il secondo, io faccio l'avvocato del diavolo. Allora, il secondo punto sarebbe questo. C'è una legge regionale qui da noi in Sicilia che prevede che quando ci sono due trattamenti erogati dallo stesso ente, in questo caso la regione Sicilia, il soggetto deve scegliere o l'uno o l'altro. Ma qua se sono erogati, che ne so, Parlamento e regione Piemonte, faccio un esempio, sono due enti diversi. Vedi che facendo l'avvocato del diavolo. Però, sì, però siccome il presidente Coscia faceva riferimento a una serie di situazioni, portandola più da un punto di vista della necessità, che in realtà in questa maniera cade. Ma è chiaro, ma le soluzioni dice ci sono. Stiamo parlando di nulla. Ma Francesco, guardi, però devo chiudere. Le suggerisca ai presidenti di Camera e Senato che le devo fare. Allora, io voglio chiudere con che cosa? Con la segreteria telefonica. Ma sì, la vogliamo introdurre anche in questa fascia oraria. Noi abbiamo una segreteria telefonica, voi lo sapete o no? No, se vi svegliate adesso e ascoltate la trasmissione a quest'ora. Ma noi siamo in onda dalle 6:30. E allora al numero 02 4652 4492 potete dire quello che volete. Alessandro Milan, tu sei anche bravo, ma non sai fare la differenziata. Le notizie sulla tua squadra vanno nella carta costa. Ale, cosa dire? Sei troppo bravo, simpatico, bello, insomma. E ti avevo pure detto che non eri il cretino, ma tu sei un mascalzone. Mitico Milan, ma sei fuori come un balcone, ma cosa ti sei fumato? Ciao Alessandro, ma che trasmissione stamattina? L'unica cosa che mi è piaciuta è detto che quando sarai vecchio sarai rincoglionito, vabbè, ma quello lo sei un po' già adesso. Signore Milan, siamo disperati, non ci capiamo più niente, voi parlate soltanto lingue straniere. Noi stessimo a parlare, a discutere dello giobacche, che significa sto giobacche? Non lo capivo, non si capisce. Ma quello che non perdono, ammazza l'amico tuo, è quella parola strana. Lo volontari di Scrasher, che cavolo ordite, mannaggia la puttana, spiegatevi bene. Ecco, c'è anche il nostro Angelino, contadino di Terni, che a volte ci chiama. Potete dire quello che volete, è la nostra segreteria telefonica 02 4652 4492. Poi tra l'altro sul nostro sito le pubblichiamo tutte, sul sito di Radio24.it, alla nostra pagina 24 mattino abbiamo tutti i nostri audio, le segreterie vecchie, dite la vostra, spesso le faremo sentire ad ora in poi anche in questo orario se ci stiamo, comprimiamo tutto e ci mettiamo dentro tutto. Dai, Lorenzo Nespoli, Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi sono in redazione di 24 mattino insieme all'alpino Peter Bescapè lì in regia. Vi aspettiamo domani 6:30 se siete non debosciati e se no arrivate un po' con calma. 24 mattino.